Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che spesso va a guardare anche le novità editoriali non solo legate alla produzione di fumetti ma anche ai libri che parlano della storia dei fumetti. Quindi non poteva sfuggirsi questo lavoro di Dario Fontana, che ha un volume molto corposo, 600 pagine, il titolo è Il fumetto e le sue origini con la sua diffusione in Italia. Un tassello in più nella ricostruzione della vicenda delle strips, perché nella sterminata saggistica sul fumetto non ce n'era uno che come questo raccontasse la sua storia in modo cronologico. Infatti tanti hanno sviscerato il fumetto in tutte le sue forme e le sue declinazioni, ma mai in un percorso storico cronologico di quasi due secoli. Sì, perché molto spesso, come sentiremo anche nell'intervista a seguire curata da Morena Moretti, datiamo la nascita del fumetto alla fine dell'Ottocento. In realtà Dario Fontana in qualche modo data precedentemente un discorso che si è sviluppato, costruito come in tutti i linguaggi, passo passo, questa forma creativa, artistica, comunicativa, fino ad arrivare poi questo largo volume all'attualità e a comprendere anche le questioni che sono legate all'innovazione negli anni 60 di Linus, ma più avanti ovviamente, e nell'intervista se ne parlerà, di graphic novel e di manga. Quindi dopo lo stacchetto musicale, l'intervista di Morena Moretti con Dario Fontana. Siamo con Dario Fontana, che ha pubblicato di recente un'opera grande, monumentale, alcuni l'hanno definita, che è Il fumetto, le sue origini e la sua diffusione in Italia. Ed effettivamente dal titolo dà proprio l'idea che ci siano tante questioni dentro e che il libro sia davvero corposo. È così, Dario Fontana? Sì, se pensiamo al volume, inteso come quantità di carta, è piuttosto notevole, perché 528 pagine di un formato simile alla 4. E l'argomento che tratto spazia su due secoli. La quantità di pagine è notevole proprio perché il tempo è molto ampio. E parte dalla fine 800. E fine 800 è indicato come nascita del fumetto, ma è completamente sbagliato. Perché quella è la nascita dell'industria del fumetto, l'affermazione dell'industria del fumetto. Il fumetto, come è un linguaggio e come tutti i linguaggi, nasce un po' alla volta, si compone un po' alla volta. Diciamo che l'inizio, la prima metà dell'Ottocento, segna un punto focale per il linguaggio fumetto, cioè la sua codificazione. Ci sono stati dei precursori, c'è sempre stato nell'uomo la volontà di narrare attraverso le immagini, e questo piano piano creato attraverso le esperienze di decine, centinaia, migliaia di persone che hanno voluto esprimersi con le immagini, hanno creato un terreno fertile perché qualcuno codificasse poi tutte queste esperienze. E questo qualcuno si chiama Rodolphe Toffer, è un ginevrino che nel 1827 ha codificato per la prima volta il fumetto, non pubblicando la sua prima opera. La terza opera è stata pubblicata su spinta del successo che ha, di critica che ha ottenuto questa sua prima opera, anche da parte della cultura ufficiale. Per esempio l'apprezzamento che Wolfgang Goethe ha avuto nei confronti di Rodolphe Toffer, pubblicando una sua critica sulle riviste d'arte. Quindi io comincio con i precursori e con la codificazione di Rodolphe Toffer, per proseguire poi con i vari esperimenti fatti in varie parti d'Europa, tipo la Germania con Busch, con Max und Moritz, universalmente noti, o in Francia con Feuillard di Georges Coulomb, ma anche in Italia abbiamo avuto delle esperienze di questo tipo nell'Ottocento. Narro tutta questa storia di avanzamento del linguaggio fumetto fino ad arrivare all'industria del fumetto che si è sviluppata in America attraverso i quotidiani, i supplementi domenicali dei quotidiani, con nel 1885 con Yellow Kid, ma sono tutte date convenzionali, perché per esempio certo. 1885 non è che nasce l'industria del fumetto negli Stati Uniti, i supplementi domenicali esistevano già, solo che non erano così puntati sul fumetto, ma il fumetto faceva parte di un supplemento che conteneva anche altre rubriche, altre informazioni. Nel 1884 si è sviluppato l'idea di fare solo un supplemento domenicale solo sul fumetto, e nel 1885 abbiamo avuto la prima tavola a colori del supplemento domenicale. Mentre invece in Italia quello che noi possiamo definire fumetto, in che periodo si colloca? Sì, in Italia il fumetto è entrato con il Corriere dei Piccoli nel 1908. Proprio il 31 dicembre, l'ultimo giorno del 1908, però in realtà era entrato già prima, molto prima. Abbiamo avuto sull'illustrazione italiana, sulla lettura, su altre riviste di cultura, abbiamo avuto delle esperienze sul fumetto vero e proprio. Abbiamo avuto un predecessore, il Pasquino, il giornale di Torino, con Eia, che ha fatto anche l'inviato speciale al taglio dell'Istmo di Suez e ha creato un album a fumetti satirico sulle situazioni che si erano create durante la cerimonia. E poi abbiamo avuto anche un'esperienza di fumetto rivolto ai bambini sul Novellino, che sembra addirittura a colori con la Nuvoletta, mentre Corriere dei Piccoli ha stravolto il linguaggio fumetto a proprio uso e consumo, trasformando le tavole domenicali americane in favolette senza grosso seguito per i bambini. Diciamo che il fumetto, le origini, fino ai Corriere dei Piccoli, era diretto agli adulti, che poi lo leggessero anche i bambini nel supplemento domenicale, ma quello era rivolto a tutta la famiglia, non solo ai bambini. L'isola segreta, c'è un messaggio per te. Qui Corriere dei Piccoli dall'isola segreta, c'è un messaggio per te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri dalla bimba. Tanti auguri dall'Armando. Tanti auguri dalla Nella sua opera, Fontana, lei sì. Si occupa prevalentemente, direi, di editoria, e quindi c'è un percorso tra gli editori di pubblicazioni, di fumetti, prima magari con riviste illustrate, come poteva essere appunto il Corriere, ma poi anche il giornalino di cui ci occupiamo noi, che è il Pioniere, e più avanti nei giornalini invece dove ci sono fumetti autonomi. Quindi in questo percorso che lei ha fatto, analizzando anche le case editrici, che tipo di storia esiste, insomma, c'è affatto? Dunque, la storia che racconto è cronologica, come tutte le storie. Quindi racconto l'entrata ufficiale del fumetto in Italia, sì, attraverso il Corriere dei Piccoli, tutto il percorso degli anni 10 e 20 di pubblicazioni dirette solo all'infanzia, che non fanno altro che imitare lo stile del Corriere dei Piccoli, con i piccoli accenni anche all'interesse sociale di alcune testate, per poi arrivare fino agli anni 30, dove finalmente arriva la Nuvoletta nei fumetti. Però calco sempre il rapporto fra fumetto e l'epoca in cui esso è stato prodotto, perché quello rispecchia, il fumetto rispecchia l'epoca, le convenzioni, le situazioni, gli stili anche verbali ma anche di moda dell'epoca. Quindi il fumetto diventa testimone dell'epoca. C'è un momento in cui in Italia arriva per esempio Linus, io non so come viene trattato, come lo tratta lei? Come il sole che illumina il paesaggio, perché Linus è stata la prima, tra virgolette, prima rivista dedicata a dei fumetti, dedicata agli adulti. Ce n'è stata una prima, l'ha tradotta tutte le pubblicazioni, i giornali di trincea della Prima Guerra Mondiale. ma lì avevano funzione di sollevare un po' l'animo dei soldati delle trincee. È stata una parentesi aperta e chiusa in quel periodo e basta. Sempre il fumetto in Italia fino a Linus è stato rivolto solo ai bambini. Linus ha dato una patina di cultura al fumetto perché è stato creato da persone molto acculturate. C'era un fondamento culturale profondo, tanto profondo che a volte dopo qualche anno sembrava quasi che ci si rivolgesse più a un'elite di lettori che alla massa, però in realtà Linus ha creato il lettore adulto di fumetti e quindi per me Linus è una pietra miliare. E facciamo però un salto temporale perché ovviamente non possiamo analizzare tutte le parti che io invito naturalmente tutti gli ascoltatori a leggere, un salto temporale che ci porta fino ai giorni nostri dove leggiamo delle grandi graphic novel e dei manga, soprattutto agli adolescenti, ma anche poi gli adulti. Come vengono descritti nel tuo libro? Le possiamo chiamare forme diverse o nuove forme di racconto a fumetti? Distinguiamo un attimo fra graphic novel e manga. Manga sì. È il fumetto giapponese, anche certo. Se manga, oltre al fumetto, comprende anche come concetto, comprende anche le animazioni. Ma è una cultura diversa dalla nostra occidentale, sembra addirittura che la cultura del manga sia ben più lunga, più ampia della cultura del fumetto occidentale. Hanno codici di lettura diversi, a cominciare dal senso di lettura, mentre in Occidente si legge da sinistra a destra, in Oriente si legge da destra a sinistra. Oppure in modo verticale, questa è la differenza più evidente, ma anche il concetto del fumetto è diverso, anche se poi il fumetto occidentale si è un po' orientalizzato attualmente e il fumetto orientale si è un po' occidentalizzato, cioè abbiamo anche nel campo del fumetto abbiamo la globalizzazione. Contaminazioni sono normali e necessarie, mentre per quello che riguarda la definizione di graphic novel io non la amo particolarmente, anche perché per me è un espediente editoriale. Il fumetto è sempre stato dedicato nell'immaginario collettivo italiano, è stato sempre cosa da bambini. Ora, come facciamo a far accettare agli adulti il linguaggio fumetto? Ma inviandogli un certo titolo che può essere così più attirante verso questo tipo di linguaggio. Ma in realtà le graphic novel sono sempre esistite. Diciamo che l'addizione è nata negli anni 80 e poi si è sviluppata fino ad arrivare oggi come se fosse un genere diverso dal fumetto, perché in qualche libreria si leggono i cartelli che indicano fumetti e graphic novel, che sono due cose diverse, dovrebbero spiegarmelo. Comunque, se vogliamo parlare di graphic novel dal 1980, allora dimentichiamo il capolavoro Una ballata al mare salato di Hugo Pratt, perché è nato a puntate su una rivista e solo dopo raccolto il volume, perché i puristi del graphic novel dicono che il lavoro nasce per essere pubblicato direttamente su un volume e venduto in libreria. E allora Una ballata non è un graphic novel. Dario Fontana, lei ha avuto anche una fumetteria molto nota a Trieste, non solo libri. Sì, la mia famiglia, sì. Sì, e lei dice che questo libro era nato da dedicare agli amici più stretti, ma poi invece ha preso corpo, è diventato appunto questa grande opera, quindi il progetto è cambiato, quindi adesso a chi pensa è diretto questo lavoro? A tutti i curiosi, cioè le persone che amano o leggono il fumetto, ma che come sono stato io sono interessate a vedere cosa c'è dietro il fumetto, chi ci lavora, chi lo produce, come viene prodotto. Io lo volevo dedicare agli amici come regalo natalizio, ma pensavo un libretto di 100 pagine, poi come anche ho scritto nella prefazione mi sono lasciato prendere la mano dal piacere di scrivere, anche se io non ho una cultura umanistica, anzi ho una cultura tecnica, però ho scoperto che scrivere è bello, per cui mi sono lasciato prendere la mano e libro da 100 pagine è diventato 500. e c'è chi nasce come paperi, lo sfortunato è sempre pieno di guai, e c'è chi invece come topoli, carino, intelligente, simpatico alla gente, c'è chi è come Paperon de Paperon, pieno di fantastiliardi di milioni, ma poi sta sveglio tutte le notti per paura che arrivi la banda bassotti. Ma io mi sento come Wilco Iotti, che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati e troppo complicati, e quel bipipi non lo prenderà mai. Ma siamo tutti come Wilco Iotti, che cade ma non molla mai, ci può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma lui non si arrenderà mai. E c'è chi vive come Eta Beta, sembra che stia con la testa su un altro pianeta, e non si alza la mattina se non si spara un po' di natalina. E c'è chi è come Pietro, gamba di legno, sempre preso in qualche loschissimo disegno. E c'è chi vorrebbe avere tutte le risposte come dal manuale delle giovani marmotte. Ma io mi sento come Wilco Iotti, che cade ma non molla mai, che fa progetti strampalati e troppo complicati, e quel bipipo e non lo prenderà mai. Ma siete tutti come Wilco Iotti, che vi ficcate sempre nei guai, vi può cadere in un addosso, finire sotto un masso, ma voi non varrete mai. Dopo questa chiacchierata con Dario Fontana, autore di questo monumentale libro sulla storia del fumetto e le sue origini in Italia, veniamo invece al più importante illustratore sicuramente delle opere di Rosari. Parliamo di Bruno Munari e lo facciamo perché fino al 30 giugno alla Fondazione Magnani Rocca di Mammiano di Traversetto del Parmense c'è questa mostra che dice Munari tutto, così, definitivo. In realtà abbiamo il Munari nelle sue tante facce, dal designer, artista, illustratore, che vengono portate con tantissime opere in esposizione. Ne ha parlato, per presentare la mostra medesima, William Piana con Marco Meneguzzi, che è insegna studioso munariano, nonché curatore di questa mostra, quindi persona perfettamente informata dei fatti. E allora sentiamo cosa aspetta a Traversetolo. siamo con Marco Meneguzzo, curatore, che parliamo di un artista di cui faremo un identikit, che è Bruno Munari. Ci può dire qualcosa di più per presentare intanto questo arrivo alla Magnani Rock? Innanzitutto diciamo che era nato nel 1907 ed è morto nel 1998, quindi ha percorso tutto il XX secolo. Questo è un dato anagrafico. Dato invece creativo è che Bruno Munari è stato uno di quei personaggi che hanno attraversato tutti i territori creativi, nel senso che si è occupato di design, si è occupato di arte, si è occupato di grafica editoriale e soprattutto si è occupato di didattica e di pedagogia, ed è in questo campo che è soprattutto noto da un pubblico quasi di fan che appartiene a tutti, non so, gli educatori, gli insegnanti, eccetera, perché aveva addirittura ideato un metodo Munari per approcciarsi al mondo, per far vedere ai bambini come ci si potrebbe approcciare al mondo. Questo è il personaggio. Poi è un personaggio super noto anche nel campo appunto del design, adesso lo sta diventando nel campo dell'arte. È in fondo una riscoperta, è stato uno che è stato molto stimato durante la vita, ma non è mai stato singolarmente apprezzato, nel senso, negli anni 60 e 70 si diceva Munari artista, è un po' troppo designer per essere un buon artista, e viceversa, è un po' troppo artista per essere un buon designer. Invece adesso che, diciamo così, l'attraversamento dei territori è tutto più fluido, ecco che improvvisamente la sua figura diventa premonitrice. Quindi tra arte, grafica, design potrebbe essere l'intersezione, diciamo, cioè, più rappresentativa nella sua espressione, si racchiudono anche. Beh, ci sono anche altri personaggi che hanno saputo interpretare questa cosa, ma sono veramente pochi. Mi viene in mente, che ne so, Alessandro Mendini, per esempio, oppure un altro personaggio come Ugo La Pietra, cioè quelli che non si sono specializzati in una disciplina, che è stato un atto di coraggio in certi momenti, perché la modernità, intesa storicamente e concettualmente, faceva sì che uno dovesse scegliere il proprio territorio. Invece qualcuno ha detto, ma perché devo scegliere uno? E se ne scegliessi due, se ne scegliessi tre? E questo fa il paio con quello che è il suo, diciamo così, il suo approccio, vale a dire. La sua domanda è, ma si potrebbe fare in un'altra maniera? Che cosa significa questo? Significa che quando tu ti chiedi questo, cominci ad analizzare il problema e arrivi a delle soluzioni inaspettate, questo è straordinario. Entrando in mostra, quante opere troviamo? Il numero delle opere è incredibile, perché sono più di 250, però bisogna tenere conto anche di un'altra cosa, che Bruno Munari era un personaggio che lavorava tutto il giorno, cioè attraversava la strada e vedeva che le strisce erano fatte in una determinata maniera, sto facendo un racconto mio personale, e magari diceva, ma e se le facessi in un altro modo? Poi, non so, prendeva un pezzetto di carta, lo piegava in una determinata maniera, e poi naturalmente si dedicava anche a progetti, diciamo così, più sostanziosi e magari sostanziali, ma l'idea era che tutta la vita era una continua scoperta, e questa continua scoperta si manifestava attraverso piccole cose, cioè queste 250 opere, a parte alcuni capisaldi, sono delle opere piccole in fondo, sono delle opere quotidiane, quelle che non dico uno potrebbe fare in casa sua tutti i giorni, perché a proposito di questo Bruno Munari diceva, ed è una frase importantissima in questo senso, quando uno ti dice questo lo so fare anch'io, vuol dire che al massimo lo sa rifare, e questo va bene per tutti quelli che credono che in fondo l'arte contemporanea o il design, che sono delle cose semplici, ma per arrivare a quella semplicità c'è molto molto molto da fare. C'è un aspetto dialogico con altri artisti anche presenti in mostra, o sarà solamente per Munari? Beh, la mostra è una mostra personale, anche perché Munari in un certo senso è inimitabile, è ovvio poi che se uno vuole trovare delle analogie, delle vicinanze eccetera, le trova soprattutto nella prima parte, cioè quella del Munari Dante Guerra, Munari fino al 1940, perché chiaramente Munari è ancora giovane, perché non ha raggiunto la quarantina, è ancora giovane ed è influenzato da tutto il contesto, ovviamente. E qual è il contesto che va a scegliere? È il contesto del novecentismo o è il contesto del futurismo? Di sicuro lui è attaccato al futurismo, ma non è il futurismo di Marinetti, è il futurismo di Rampolini. Cioè è un futurismo più allegro, più multimateriale, non retorico, non monumentale. Mi hanno detto che è stato anche illustratore per Rodari. Certo, è un sodalizio molto interessante questo. Aveva fatto, e sono straordinarie, e in mostra ci sono, aveva illustrato Il pianeta degli alberi di Natale, oltre ad aver fatto le copertine. Il problema della grafica editoriale è uno del, diciamo così, dei suoi cavalli di battaglia, perché ha cominciato negli anni 30 con delle soluzioni grafiche straordinarie, tipo, non so, bucare le pagine, fustellarle in modo che uno vedesse nella pagina successiva, per dire, ecco, cosa che gli è rimasta poi nel corso del tempo, no? Far vedere attraverso, fare delle pagine, come dire, trasparenti in modo che si vedesse sotto, oppure cose, altre cose di questo genere, e poi naturalmente è diventato il grafico Einaudi più noto e più importante, perché tutte le grafiche Einaudi degli anni 60 e 70 sono sue. Thank you.